La proposta del governo con la quota 100 di fatto è il tentativo di modificare, ma non abolire ovviamente, la riforma delle pensioni Fornero, e quindi sostanzialmente cercare di ridurre l'età pensionabile che invece era stata molto elevata. Quota 100 significa di fatto avere un minimo, poter andare in pensione con un minimo di 38 anni di contributi e 62 anni di età, oppure in un certo senso la questione dell'indicizzazione rispetto alla speranza di vita, però cioè ad oggi le pensioni vengono indicizzate rispetto appunto a qual è la speranza di vita, che poi in realtà in Italia è diminuita, e quindi diciamo in qualche modo abolire questo tetto in modo tale che non aumenti automaticamente il momento della possibilità di andare in pensione. E parliamo ora delle dichiarazioni di Boeri, cioè che cosa ha dichiarato ed è vero quello che ha detto? Allora, Boeri nella sua audizione innanzitutto fa, ma non ci stupisce l'allarmismo secondo cui questa manovra rischia in qualche modo di portare una spesa di circa 100 miliardi per lo Stato a regime, quindi ovviamente non tutte in una volta nel 2019, ma nel tempo. E di fatto Boeri prende le misure rispetto a quella che è la vera ipoteca dell'Italia nel 2012 con la riforma Fornero e il governo Monti, quello che hanno detto. Sostanzialmente ne aboliamo il debito e riduciamo attraverso un allungamento dell'età pensionabile, che è una cosa ovviamente contabilmente che non sta in piedi, ma politicamente forte, perché sappiamo che una delle prime riforme strutturali insieme a quella del lavoro era proprio quella pensione. E successivamente Boeri in qualche modo poi attacca questa manovra dicendo sostanzialmente che beneficeranno soprattutto gli uomini, soprattutto chi ha un reddito da pensione intorno ai 35.000 euro e le persone più stabili, quindi si torna alla questione dei privilegi dei lavoratori, dicendo che appunto chi ne beneficerà saranno soprattutto impiegati pubblici. Ora, su questo secondo me bisogna davvero aprire il tema. Innanzitutto parto dalla fine, quando si dice che di conseguenza se solo sono gli stabili allora questa è una manovra che peggiora le condizioni dei giovani e delle donne, il problema torna al perché questa cosa succede. Succede perché sia le donne che i giovani di fatto hanno una partecipazione bassa al mercato del lavoro, ma soprattutto vivono periodi lunghissimi di disoccupazione e soprattutto in qualche modo di intermittenza contributiva che è scarsa, perché come sappiamo bene i contratti di lavoro per donne e giovani sono sempre quelli diciamo più farlocchi, dove sia i salari sono bassi e quindi la contribuzione di conseguenza è bassa, i periodi sono molto inframmezzati tra lavoro e non lavoro. Quindi da questo punto di vista Boeri ci dovrebbe dire perché, e anzi dovrebbe intervenire sul per come questa manovra non interviene affatto nella possibilità di creare nuova occupazione, però Boeri ovviamente se ne frega di tutto questo. L'altro punto secondo me molto importante è quello sui dipendenti pubblici, e questo effettivamente è un tema problematico, ma è problematico non per quello che dice Boeri, ovvero oggi nel settore pubblico esiste ancora il blocco del turnover, ovvero per ogni 10 pensionati soltanto 2 o 3 sono i nuovi occupati, quindi le nuove assunzioni, considerando che gli impiegati pubblici innanzitutto sono soprattutto donne, ma hanno un'età media sopra i 55 anni, questo significa che se già ad oggi nei prossimi 5 anni avremo 200.000 circa pensionamenti, questo numero aumenterà senza che il governo abbia avuto una visione sistemica e abbia in qualche modo messo in discussione proprio il blocco del turnover, per quindi come dire, poter riassumere poi quelli che sono gli impiegati pubblici degli sportelli dei vari uffici, gli insegnanti, i medici, i magistrati, non so, gli infermieri e quant'altro. Quindi insomma, diciamo sintetizzando molto, è possibile fare una manovra delle pensioni, una riforma della legge Fornero che sia effettivamente positiva finché il mondo del lavoro è così precarizzato allo stato attuale delle cose? Ma allora è molto difficile, perché appunto se non si tiene insieme sia il pezzo del mercato del lavoro che quello delle pensioni, di fatto non si arriva a in qualche modo una misura sostenibile, questo ce lo diciamo da sempre. Quello che però in sintesi va detto è che l'opposizione che arriva in qualche modo a questo governo appunto tramite le parole di Boeri ma di molti altri è un'opposizione a destra, non un'opposizione che dice va bene, è vero che la gente sta morendo sulle impalcature, ma allora facciamo qualcosa per migliorare questa situazione. Allora interessa la contabilità, perché in realtà è una posizione politica che è quella che vuole l'Europa. E un'ultima domanda velocissimamente, parlando di contabilità, quindi rispondendo a tono alla posizione di Boeri alla riforma, perché Boeri dice alla fine il costo di questa manovra ricadrà sul PIL e andrà a costare un punto percentuale di PIL fondamentalmente, e finché non si risolve il problema del mercato del lavoro, sarebbe così sbagliato che insomma una parte dei soldi dello Stato andassero investiti nel campo pensionistico? Ma in realtà appunto non sarebbe un problema, la previsione della ricaduta dell'1% è davvero da un lato esagerata, data dovremmo davvero guardare quali sono le stime e le simulazioni. Quello che sappiamo sicuramente è che non è una misura questa di per sé regressiva. Il problema che non ci dicono è in che modo il PIL, attraverso appunto tutte quelle altre misure, cioè assunzione, miglioramenti delle condizioni di lavoro, eccetera, può aumentare, che è una cosa che non dice né Boeri né il governo. Cioè sono due forme sostanzialmente di propaganda fittizie, anche fallaci in un certo senso.